Mamma, sia lodato il cielo, mamma. E adesso togliti una buona volta il velo che io ti possa guardare in faccia. Guardare bene. Sì, sei cambiata, sei diventata più bella. I tuoi occhi adesso sono più grandi e il tuo viso è più pieno e la tua fronte. Perché piangi, mamma? Quando mi hai veramente riconosciuta, Oscar? Riconosciuta? Mi sono piantato là, sulla tomba di Carlo Magno, soltanto per aspettarti. Ed ero anche molto curioso di vedere come tu ti rivolgi a uomini sconosciuti. E io che avevo fatto conto che il tuo Löwenhielm serbasse il segreto. Il mio Löwenhielm non ha colpa. Fin da principio era mio desiderio di vederti senza testimoni. Il conte ha visto come mi torturavo il cervello per questo e allora mi ha confessato che tu mi avevi prevenuto. Oscar, è vero tutto quello che mi hai detto di papà? Certo. Ho soltanto caricato un po' le tinte perché tu ti decidessi presto a tornare. Quando verrai? Mi prese la mano e se la portò alla guancia. Tornare. Tornare in un paese straniero dove ho avuto tanto freddo. Egli si passava la mia mano sulla guancia. Oscar, hai i peli della barba come un vero uomo. Non sai come mi hanno mortificata allora a Stoccolma. Mamma, mammina, chi ti ha mortificata? La lugubre regina vedova del vaso assassinato. Quella è morta da parecchi anni. La vedova del vecchio re. Edwige Elisabetta è morta pochi mesi dopo suo marito. O la vecchia principessa Sofia Albertina. Non farmi ridere, mamma. Chi vuoi che ti affligga? Non dimenticare che sei la regina. No, non lo dimentico. Ci penso ogni minuto. È un pensiero che mi perseguita. Ho tanta angoscia per questo. Mamma, prima nel Duomo tu hai mormorato qualche cosa di una preghiera a Sua Altezza e hai detto questo soltanto per attaccare discorso con me? No, ho veramente una preghiera da rivolgerti. Essa riguarda mia nuora. Ma questa ancora non c'è? Papà ha messo insieme una lunga lista di principesse che io dovrei visitare. Principesse di Oranienburg, ma specialmente prussiane. Una più brutta dell'altra. Papà si è procurato i loro ritratti. Sarei più contenta che tu ti sposassi per amore, Oscar. Oh, anch'io, credimi. Credimi, mamma, quando tornerai a casa ti farò vedere segretamente la mia figlioletta. Si chiama Oscar, mamma. Oh, sono nonna, gran Dio! Ma le nonne sono vecchie signore. Vado ad un ultimo convegno senza alcun presentimento ed ecco. Mamma, Oscar ha ereditato le tue fossette del viso. Oscara, la mia nipotina Oscara. Dimmi. E non hanno una madre queste fossette? Oh sì, è incantevole anche. Jacquette Guildenstolpe. E papà lo sa? Ma che cosa ti viene in mente, mamma? Promettimi che non ne farai mai alcun cenno. Ma non dovresti questa signorina sposarla? Mamma, tu dimentichi chi sono. Fui ferita da queste parole, non so perché. Oscar continuò a parlare rapidamente. Papà aveva prima pensato a un legame con la casa di Hannover, ma per gli inglesi la dinastia Bernadotte non è abbastanza aristocratica, quindi dovrò prendermi una principessa prussiana. Senti, Oscar, è stato stabilito che di qui tu verrai con me alle nozze a Bruxelles? L'avevo già dimenticato. Chi si sposa e con chi? Zenaide, la figlia di zia Giulia, sposa un figlio di Luciano Bonaparte. Per questo matrimonio Giuseppe torna dall'America e forse resterà con Giulia in Europa. Speriamolo, così almeno saremo liberati da ogni preoccupazione per lei e per la sua malferma salute. Eh sì, zia Giulia è molto delicata. Oh, perdonami, mamma, ma tutti Bonaparte mi sono antipatici. Come suo padre. Le stesse parole. La zia Giulia è una Clarie, non dimenticarlo. Benissimo, andremo alle nozze, mamma, e poi? Da Bruxelles andrò in Svizzera e farò visita a Hortensia, la duchessa di Saint-Leu, al castello di Arenenburg. È di nascita una Beauharnais, figlia della bella imperatrice Giuseppina. Vorrei che tu mi accompagnassi. Mamma, ne ho proprio pochissima voglia. Questi Bonaparte. Vorrei che tu conoscessi la nipote, la piccola Stella Filante. La piccola che cosa? E suo padre è l'ex viceré d'Italia, ora porta il titolo di duca di Leuchtenberg e ha sposato una figlia del re di Baviera. È la figlia, è la più bella piccola Giuseppina che tu possa immaginare. Anche se è tanto bella, non la posso sposare. Perché no? Ah, di nuovo tu dimentichi chi sono io. Questa piccola, oscura Leuchtenberg non è un partito per il principe ereditario di Svezia, per un Bernadotte, mamma. No? Allora ti dirò io qualche cosa, Oscar, ma prima versami ancora da bere. Lo champagne incomincia a piacermi, sai? Ecco. E adesso ascolta. Il nonno paterno di lei era il visconte di Beauharnais, generale dell'esercito francese, e la nonna era la viscontessa di Beauharnais, nata Tascher de Pageries, la più bella donna del suo tempo, la più affascinante e costosa cocotte di Parigi. In seconde nozze, imperatrice di Francia. Il tuo nonno paterno era un rispettabile scrivano d'avvocato a Pau, e della mamma di tuo padre non ho nessuna notizia. Ma, mamma, lasciami finire. Il nonno materno di lei è il re di Baviera. La casa reale di Baviera è una delle più antiche famiglie principesche d'Europa. Il tuo nonno materno era il negoziante di sete François Clary di Marsiglia. Si strinse la fronte con la mano. La nipote di una cocotte? Oh, sì, e di una cocotte affascinante. Io, per la verità, non ho visto la piccola Giuseppina che una sola volta, bambina, ma lo stesso sorriso, lo stesso fascino di quella grande. Oscar sospirò. Mamma, non fosse che per ragioni dinastiche. Appunto per ragioni dinastiche. Voglio diventare la capostipite di gente bella. Papà non lo permetterà. Oh, proprio a lui bisognava proporre di sposare una donna brutta. A tuo padre parlerò io. Tu devi soltanto venire a vedere la stella filante. Cameriere, il conto. A braccetto ci avviamo verso l'albergo. Il cuore mi batteva per la gran gioia e per il cattivo champagne. Quanti anni ha, mamma? 15 appena. Ma a quell'età io davo già dei baci. Oh, tu eri una ragazza precoce, mamma. Ma perché la chiami la stella filante? Stavo per spiegarglielo, ma eravamo in vista dell'albergo e improvvisamente egli divenne serissimo. La sua mano strinse forte il mio polso. Mamma, mi prometti che accompagnerai la mia fidanzata nel suo viaggio a Stoccolma? Sì, te lo prometto. E che ci resterai? Io esitai. Dipenderà. Da che cosa, mamma? Da me stessa, Oscar. Ci potrò restare soltanto se riuscirò a diventare una buona regina. Io prendo la cosa molto sul serio. Oh, ti manca soltanto l'esercizio, mamma. Ah, eccoli, il tuo Löwenhielm e il mio Löwenhielm. Come sgambettano per la grande agitazione. Introdurrò alcune riforme alla corte di Svezia, bisbigliai all'orecchio di Oscar. Lui mi guardò e sorrise. Prima che compaia nel cielo la stella filante, sarà bene far scomparire il sole tramontante. Assentii. Daremo alla damigella di corte dei Cosculi il suo meritato riposo, dissi. Mamma, siamo tutte e due un po' brilli, disse Oscar spaventato. Poi cominciamo a ridere, non potevamo più smettere. Si addice questo ad una nonna illegittima? Al Castello Reale di Stoccolma, primavera del 1823. Dio mio, com'è bello il nostro paese, mormorava rapita mia nuora, la principessa ereditaria di Svezia. Eravamo affacciate l'una accanto all'altra al parapetto di una grandiosa nave da guerra che ci aveva attese nel porto di Lubecca e doveva condurci in Svezia. Ci siamo già? Pier deve allacciarsi la sua gamba di legno, domandava ogni momento Maria. Il matrimonio della stella filante con Oscar è stato celebrato a Monaco di Baviera, ma Oscar non c'era perché la cattolica stella filante ha voluto sposare in una chiesa cattolica e Oscar è protestante, così egli si è fatto rappresentare alla cerimonia nuziale di Monaco. Le grandi feste per le nozze cominceranno soltanto dopo il nostro arrivo a Stoccolma. Non so chi abbia avuto la felice idea di risparmiarci l'interminabile viaggio attraverso la Danimarca e la Svezia meridionale mandandoci questo incrociatore che ci ha fatto passare davanti a tutte le isole che fronteggiano Stoccolma. E neppure so perché Giambattista mi faccia viaggiare su di una nave da guerra armata di 84 cannoni. Il cielo era azzurro pallido e le isole emergevano, rocciose e scoscese dalle onde. I pini neri avevano cime verdi e su tutti gli scogli e su tutti i prati tremolavano le betulle. Migliaia e migliaia di betulle in primaverile veste giallo chiara. Il nostro bel paese, ripeteva la nipote di Giuseppina accanto a me e beveva con gli occhi raggianti lo spettacolo dei boschi di betulle. Marcellina e Mario mi accompagnavano. Stefano mi ha scritto una lettera colma di gratitudine perché ho nominato sua figlia mia prima dama di corte. E Mario continuerà ad amministrare le mie finanze e a far la parte del funzionario svedese, invece di mandare avanti la ditta Clary. Sono il mio pezzettino di Francia che viaggia con me. Marcellina, Mario, Maria e Pierre, e Yvette, si intende, la sola che oltre a Giulia sappia pettinare la mia chioma ribelle. Giulia, come sono forti le creature deboli, come le sue dita diafane, esangui, hanno saldamente serrato per tanti anni il mio braccio. Non lasciarmi, Desire, manda ancora una petizione al re di Francia. Vorrei tanto tornare a Parigi. Restami vicina, aiutami, aiutami. Le mie petizioni sono state inutili, ma io le sono sempre stata vicina. Finché al matrimonio di sua figlia, ella mi ha dichiarato, Zenaide abiterà con suo marito a Firenze. L'Italia mi ricorda Marsiglia. Mi trasferirò a Firenze con gli sposi. E Giuseppe, che aveva raccontato innumerevoli storie sui suoi allevamenti di bestiame e sulle sue azioni delle ferrovie nello stato del New Jersey, ha detto improvvisamente, quando sarò vecchio verrò anch'io da te in Italia. Giulia lo prese a braccetto. Così tutto andrà per il meglio, proclamò, indifferente e serena. Quanto a me, mi aveva completamente dimenticata. Le salve di saluto tuonavano. Un piccolo battello si dirigeva verso di noi. Io mi portai il binocolo agli occhi. Devi incipriarti il naso in gran fretta, Giosefina. Oscar, vieni a bordo. Le cannonate non finivano più. La riva era nera di folla. Il vento portava le grida di giubilo per l'aria azzurra e sempre più numerose danzavano le barchette adorne di ghirlande intorno alla nostra nave. Oscar e Giosefina erano l'uno al fianco dell'altra e facevano cenni di saluto. Giosefina indossava uno sgargiante abito azzurro e una stola d'ermellino un po' ingiallita. La stola era stata di Giuseppina e l'aveva pagata Napoleone. Molti anni fa Ortensia l'aveva regalata alla fanciulla. «Il porto di Djurgården, maestà, stiamo per attraccare», annunciò Löwenhielm. Io mi voltai. «Maria? Adesso Pierre deve allacciarsi la gamba di legno». Le mie mani si strinsero convulse, sentii che si inumidivano. «Zia, hanno drizzato un arco di trionfo fatto di ramoscelli di betulla!» esclamò Marcellina. I cannoni continuavano a tuonare in segno di festa. Cipria, rossetto, un po' d'oro sulle palpebre. Maria mi depose sulle spalle una pesante stola di lontra. Velluto argentato e lontra sono quello che ci vuole per una suocera. La dura mano di Maria toccò rapida le mie dita. La sua faccia si è fatta vecchia e rugosa. «Siamo alla meta, Eugenia!» No, Maria, siamo soltanto al principio. I cannoni tacquero. Squilli di musiche, lieto squillare di fanfare. Questa l'ho composta per te, disse Oscar. Lo disse alla stella filante. Löwenhielm mi porse di nuovo il binocolo. Un mantello di velluto viola, piume bianche sul cappello. Improvvisamente tutti indietreggiarono, anche Oscar e la stella filante. Rimasi sola davanti alla passerella. Rimbombò l'inno svedese. Le migliaia di persone sulla banchina si trasformarono in statue. Soltanto i teneri ramoscelli di betulla dell'arco di trionfo tremolavano sommessi. I due signori che avevano atteso ritti accanto al mantello di velluto viola si precipitarono sulla passerella per condurmi a terra. Il conte Brahe sorrideva e Rosen era pallido per l'agitazione. Ma una mano guantata di bianco li scostò ambedue. Il manto di velluto violetto si fece innanzi. L'angusta passerella vacillò e il mio braccio sentì una stretta vigorosa e familiare. La folla e i cannoni tuonarono. L'orchestra riprese a suonare. Oscar condusse a terra la principessa ereditaria. Sotto l'arco di trionfo venne sospinta davanti a me una bambina vestita di bianco. La bimba quasi scompariva dietro un enorme mazzo di gigli e tulipani gialli e recitò una poesia. Nessuno si aspettava che io ringraziassi, ma quando aprì la bocca si fece un religioso silenzio. Mi sentivo irrigidita per l'angoscia, ma la mia voce era piena e calma e incominciai con le parole in svedese. Sono stata molto tempo lontana. Parlavo in svedese. Mi accorsi che tutti trattenevano il respiro. «Svedese! La regina parla svedese!» Avevo composto io stessa il breve discorso e il conte Löwenhielm me lo aveva tradotto. Poi l'avevo imparato a memoria, parola per parola. Era stato tremendamente difficile. Mi si inumidivano gli occhi e conclusi. Lunga vita alla Svezia. Lenghe leve, Sverige. Percorremmo le vie in una carrozza di gala. La stella filante accanto a me faceva cenni con sovrana dignità dall'una e dall'altra parte. Giambattista e Oscar ci sedevano di fronte. Io mi tenevo diritta col busto e sorrisi alla folla finché mi dolsero i muscoli della bocca. Ma anche allora continuai a sorridere. «Non riesco a persuadermi che davvero tu abbia tenuto un discorso in svedese, mamma», disse Oscar. «Sono incredibilmente orgoglioso di te». Mi accorsi che Giambattista mi guardava e non mi azzardai a rispondere al suo sguardo perché stavamo in una carrozza di gala aperta e io avevo fatto una tremenda scoperta. Sono sempre innamorata di lui, o lo sono di nuovo, perché non mi raccapezzo più con me stessa. P.S. Eppure è nonno, ma non lo sospetta. Castello di Drottningholm in Svezia, 16 agosto 1823. Oggi a mezzanotte sono stata per la prima volta in vita mia un fantasma. Nella mia vestaglia chiara mi sono spettralmente aggirata come la dama bianca per il castello. La colpa è delle chiare notti estive, nelle quali non fa veramente buio neppure un momento. Al tempo della mia prima visita a Drottningholm ho passato quelle notti piangendo e adesso, dopo 12 anni, devo passarle ballando. Oscar e la stella filante non fanno che frullare da una festa all'altra ed io costringo Giambattista a frullare anche lui. Da principio ha cercato di svignarsela con 101 scusa. Lavoro è sempre lavoro, naturalmente. Ha fatto appello perfino alla sua età. Giambattista ha 60 anni ed è sano come un pesce. Io gli ho riso in faccia e ho trasformato l'austero regime domestico della regia di Stoccolma e del castello di Drottningholm in una corte passabile. Venne nominata una legione di dame di corte e di ciambellani. I domestici furono insaccati in livree decenti. Tappezzieri e falegnami, sarti, modiste, parrucchieri ebbero da fare fin sopra i capelli. Ci guadagnavano tutti. E se ne rallegravano, e non ultimi, i miei diletti mercanti di sete. Oscar ha proposto che si facessero delle grandiose manovre militari nella Svezia meridionale e che tutta la corte si trasferisse nella Sconia. Perché poi? Si domandava Giambattista, e non voleva saperne. Naturalmente non la spuntò, e Oscar ed io riuscimmo nel nostro intento. La Svezia meridionale poté vedere la famiglia reale. La sera si ballò nei castelli della nobiltà terriera, la mattina assistetti per ore ed ore alle parate e il pomeriggio ricevetti una deputazione civica dopo l'altra. Maria, tanto paziente, tanto stanca anche lei, massaggiava le mie povere gambe e dalle nuove dame di corte imparai, ascoltandole, altre parole svedesi. È stata una prova terribile, ma in essa ho saputo, nel senso letterale della frase, sempre reggermi in piedi. Adesso stiamo a Drottningholm per riposare. Ieri sera mi sono coricata per tempo, ma non riuscivo a prendere sonno. L'orologio suonò mezzanotte. È il 16 agosto, pensai. È spuntato il 16 agosto. Mi infilai una vestaglia e incominciai a fare il fantasma del castello. Volevo arrivare da Giambattista. Dappertutto c'era un silenzio di tomba. Solo i pavimenti di legno intarsiato scricchiolavano. Ah, come li odio, questi castelli! Nello studio di Giambattista per poco non urtai il busto di Moreau che Giambattista porta sempre con sé. Finalmente brancolai fino al suo spogliatoio, entrai e per poco non mi fu sparato addosso. In un baleno qualcuno puntò contro di me una pistola e udii sibilare in francese un «Chivala!». «Un fantasma, Fernando!» dissi ridendo. «Soltanto un fantasma!» «Vostra maestà mi ha fatto paura!» mi rimproverò Fernando offeso. Era insaccato in una lunga camicia da notte e teneva ancora in mano la pistola. Il letto da campo sbarrava l'ingresso della camera da letto di Giambattista. «Dormite sempre davanti alla porta di sua maestà?» mi informai. «Sempre», dichiarò Fernando, «perché il maresciallo ha timore». Si spalancò allora la porta. Giambattista era ancora vestito. Senza vedersene si era spinta in su la visiera verde che porta in segreto quando studia le sue carte. «Che cosa significa questo trambusto?» urlò irritato. Io feci un inchino di etichetta. «Maestà, un fantasma chiede udienza». «Oh, spingi via quel letto perché sua maestà possa entrare», ordinò Giambattista e in fretta si tolse la visiera verde. Fernando spinse da parte il letto da campo mentre si serrava addosso vergognoso la camicia da notte. Mi trovai allora per la prima volta, dopo il nostro arrivo a Drottningholm, nella camera da letto di Giambattista. Sullo scrittoio erano ammonticchiate le carte e per terra giacevano sparsi dei grossi volumi rilegati in pelle. Studia sempre, dunque, pensai, come allora ad Hannover, come allora a Mariensburg. Giambattista si stirò, visibilmente stanco, e disse con dolcezza: «E allora? Che cosa vuole questo fantasma?» «Il fantasma si presenta soltanto», dissi io, e mi sdraiai familiarmente su di una poltrona. «È il fantasma di una ragazza giovane, che una volta sposò un giovane generale e si è coricata in un letto nuziale pieno di rose e di spine». Giambattista si sedette sul bracciuolo della mia poltrona e mi cinse col suo braccio. «E perché il fantasma si presenta proprio questa notte?» «Perché si compiono esattamente 25 anni», dissi sottovoce. «Mio Dio, allora celebriamo le nozze d'argento?» gli sfuggì. Io mi strinsi a lui. «Sì, e in tutto il regno di Svezia nessuno ci penserà eccetto noi. Niente colpi di cannone, niente scolaretti che recitino la poesia, neppure una banda reggimentale che suoni una marcia composta da Oscar per l'occasione. Com'è bello, Giambattista!» «Abbiamo fatto tutti e due molta strada», mormorò stancamente, e posò la sua testa sulla mia spalla. «E finalmente ecco che tu sei tornata da me». Chiuse gli occhi. «Tu sei giunto alla tua meta, Giambattista», sussurrai, «eppure hai paura dei fantasmi?» Non mi rispose. La sua testa posava greve sulla mia spalla. Doveva essere veramente stanco, stanchissimo. «Ti fai dormire, Fernando, con una pistola davanti alla camera? Come si chiamano i fantasmi dei quali hai paura?» «Vasa». E la sua risposta suonò come un lamento. «Al congresso di Vienna l'ultimo re Vasa, l'esiliato, sai, ha avanzato pretese al trono di Svezia per sé e per suo figlio. Ma questo è avvenuto 8 anni fa. E poi gli svedesi lo avevano deposto perché era... Ma è poi pazzo davvero?» «Oh, non lo so. Era pazza la sua politica. La Svezia si è trovata sull'orlo della rovina. Gli alleati naturalmente hanno respinto le sue pretese. In fin dei conti mi devono riconoscenza. Quell'orribile campagna di guerra. Io...» «Lascia stare, Giambattista. Non tormentarti con questi ricordi», dissi in fretta. Un tremito trascorse per la sua persona. Io lo avvertii con tutto il mio essere. «Giambattista, gli svedesi sanno molto bene quello che hanno fatto, quello che hai fatto per loro. Non ci sono forse delle cifre che ti dimostrano come la Svezia, per merito tuo, sia tornata ad essere un paese sano e ricco?» «Sì, sì, ho queste cifre», mormorò. «Ma l'opposizione in Parlamento...» «Parla forse dei Vasa?» «No, mai. Ma basta l'esistenza di questa opposizione che si chiama liberale, bastano i loro giornali che sotto sotto sempre accennano al fatto che io non sono nato in questo paese». Io mi drizzai. «Giambattista, se qualcuno ti rinfaccia che tu non sei nato qui e che non intendi la lingua del paese, non è un delitto di lesa maestà, né più né meno la verità». «Dall'opposizione alla rivoluzione non c'è che un passo», insistette lui ostinato. «Assurdo. Gli svedesi sanno molto bene quello che vogliono. Tu sei stato proclamato e incoronato loro re. E potrò essere assassinato o deposto per cedere il trono all'ultimo dei Vasa. È ufficiale dell'esercito austriaco». Decisi di scacciare definitivamente lo spettro dei Vasa. «Devo fargli male e spaventarlo», pensai rattristata. «Ma d'ora innanzi potrà dormire tranquillo». «Giambattista, in Svezia regna la dinastia Bernadotte e tu sei il solo che sembra non esserne fermamente convinto». Alzò le spalle. «Ma c'è gente la quale afferma che per timore dell'opposizione tu non rispetti la Costituzione». Voltai la faccia dall'altra parte. «Gli svedesi tengono molto alla libertà della loro stampa, mio caro, e ogni volta che tu sopprimi un giornale vien fuori questo o quell'altro che si immagina di poterti costringere ad abdicare». Sobbalzò come sotto un colpo di sferza. «Davvero? Lo vedi che non ho paura soltanto di ombre? I miei fantasmi sono molto reali. Il principe Vasa...» «Giambattista, nessuno parla del principe Vasa. E allora chi vorrebbero come mio successore i signori liberali?» «Oscar, naturalmente. Il principe ereditario». trasse un profondo sospiro. «Ma è vero!» sussurrò. «Guardami negli occhi, è proprio vero!» «Nessuno è scontento della dinastia Bernadotte. La dinastia è salda, Giambattista, è salda! Puoi dire a Fernando che d'ora innanzi dorma pure in camera sua e non con un'arma da fuoco sotto il cuscino davanti alla tua porta. Perché dovrei sempre vedere Fernando in camicia da notte ogni volta che mi venga in mente di farti una visita a tarda ora?» Le spalline dorate mi graffiavano le guance. Le candele erano consumate. «Ragazzina, tu non puoi venire a visitarmi a tarda ora. Le regine non vagano in vestaglia per i loro castelli. Tu dovresti, compresa di femminile pudore, attendere nelle tue stanze che io venga da te.» In seguito, assai più tardi, Giambattista si levò dal bracciolo della nostra poltrona e aprì le tendine della finestra. Non vi era più penombra. Il parco di Drottningholm era immerso in un dorato chiarore. Mi avvicinai a Giambattista. In quanto a Oscar, incominciò e subito si interruppe. Lievemente la sua bocca mi sfiorò i capelli. A Oscar ho dato quello che mancava a me, l'educazione. A volte mi rammarico di non poterlo vedere re. «È nella natura delle cose, questo non lo vedrai», dissi con calore. Egli rise. «No, non ho alcun timore per la nostra piccola canaglia». Io presi il suo braccio. «Vieni con me, faremo colazione insieme, come allora, 25 anni fa». Quando uscimmo dalla camera da letto, Fernando era scomparso. «Fernando lo sa che io scaccio tutti i fantasmi», dissi orgogliosa. Nello studio ci fermammo in silenzio. «Camerata Moreau», mormorò Giambattista, pensieroso. Io passai lievemente il dito sulla guancia marmorea. «Come si spolvera male nei castelli reali», dichiarai. Poi, strettamente abbracciati, procedemmo oltre. «Sono contento di essermi arreso a te e di aver consentito a Oscar di sposare Giusefina», disse di punto in bianco. «Oh, se fosse andata come dicevi tu, avrebbe avuto per moglie una brutta figlia di re e si sarebbe consolato con la vecchia Coscul, romantico amore giovanile, o padre snaturato. Comunque la nipote della nostra Giuseppina sul trono di Svezia...» Giambattista mi lanciò uno sguardo pieno di rimprovero. «Beh, non era forse affascinante la nostra Giuseppina?» «Troppo affascinante. Spero soltanto che qui in Scandinavia non si conoscano troppi particolari.» Eravamo giunti nel mio boudoir e contemplammo stupiti la grande sorpresa. Sul tavolo della prima colazione, apparecchiato per due, odorava un grande mazzo di rose. Rose rosse, bianche, gialle e rosa. Al vaso era appoggiato un biglietto. «Alle loro maestà, al nostro maresciallo Giambattista Bernadotte e signora, i migliori auguri, Maria e Fernando.» Giambattista incominciò a ridere e a me venne da piangere. «Siamo molto diversi e tuttavia...» «Già, e tuttavia...» Castello Reale di Stoccolma, febbraio 1829. La vecchia principessa Sofia Albertina può anche fare compassione. In fin dei conti esce da un'illustre famiglia. È l'ultima vasa in Svezia e adesso sta morendo. E la figlia di un mercante di sete le tiene la mano. Ora ho sfogliato le vecchie pagine di questo diario. Ho visto che a suo tempo la chiamavo la vecchia capra. Era una di quelle che allora mi avevano derisa. Come fu puerile quel mio affliggermi per i suoi poveri belati. Dopo la morte di suo fratello, la vecchia principessa è andata ad abitare nel cosiddetto palazzo del principe erede in piazza Gustavo Adolfo. Giambattista ha sempre avuto cura di farla invitare ogni tanto ai pranzi della corte, ma in realtà l'unico che si occupò di lei è Oscar. Lui la chiama zia e afferma che quando era ragazzo lei gli avrebbe dato di nascosto dei confetti dolci per la tosse. E ieri mi disse che sta molto male ed è debolissima. Questa mattina poi ella mi ha mandato inaspettatamente una delle sue canute dame di corte per dirmi che l'ultimo desiderio di Sua Altezza, la principessa Sofia Albertina, sarebbe quello di discorrere con me, proprio con me, a quattro occhi. Poveretta, pensavo mentre mi facevo condurre da lei, ecco che l'ultima dei vasi è diventata anche lei pazza. La vecchia principessa aveva fatto, in onor mio, una grande toeletta, se ne stava sdraiata su di un sofà e quando entrai cercò di rialzarsi. «Oh, per l'amor del cielo, Altezza, non incomodatevi!» le gridai e fui molto spaventata dal suo aspetto. Assomigliava più che mai ad una capra. La pelle, tirata sulle guance infossate, era diafana e sgualcita come la carta velina. Il suo sguardo incolore usciva da occhiaie incavate, ma i radi capelli bianchi erano adorni di nastri rosa da fanciulla. Il suo salotto era ingombro di ricami, rose su fondo violetto sui cuscini, sulle sedie, sul cordone del campanello. Mio Dio, la poveretta non ha fatto altro per tutta la vita che ricamare rose, sempre secondo lo stesso modello. Il vecchio volto si contrasse in un sorriso forzato. Mi sedetti accanto a lei ed ella fece uscire le sue dame. «Sono molto grata a Vostra Maestà della sua visita. Mi dicono che Vostra Maestà è molto occupata». «Oh, sì, abbiamo davvero molto da fare. Giambattista per gli affari dello Stato e Oscar per i suoi nuovi doveri. Oscar è adesso ammiraglio della Marina svedese, Altezza». «Ha parlato anche a voi dei suoi progetti di riforme?» Oscar sta lavorando intorno a un libro sulle carceri. Vuole migliorare il sistema carcerario e introdurre un nuovo tipo di stabilimento di pena, mi disse con fervore. No, Oscar non me ne ha mai parlato. Una curiosa occupazione per un ammiraglio, osservò ella caustica. E per un musicista, aggiunsi io. E la sentì annoiata. Da qualche parte un orologio ticchettava. Vostra Maestà visita molti ospedali? Incominciò ad un tratto. «Oh, certamente. Questo fa parte della professione», risposi, «e vorrei migliorarne almeno qualcuno. In Francia abbiamo come infermiere esclusivamente delle suore. Sa, Vostra Altezza Reale, chi assiste gli ammalati negli ospedali svedesi?» «Delle pie anime buone», disse esitante. «No, delle ex prostitute, Altezza». Ella ebbe un sussulto. In tutta la sua vita non aveva mai udito pronunciare questa parola. «Alibi!» «Ho passato in rivista queste infermiere, vecchie mendicanti che cercano di guadagnarsi un piatto di minestra, senza istruzione, senza interesse per il loro lavoro e senza più elementare concetto di pulizia. Questo vorrei cambiarlo, Altezza». L'orologio ticchettava. «Mi hanno detto che voi parlate un po' svedese, madame», disse lei. «Cerco di ingegnarmi, Altezza. Giambattista non ha tempo di prendere lezioni. La gente comune non gliene fa rimprovero. Trovano più che naturale che lui conosca soltanto la sua lingua materna, ma la nostra nobiltà parla benissimo francese. Ma i borghesi anch'essi studiano le lingue e io ho l'impressione che si aspettino altrettanto da noi. Perciò adesso ricevo tutte le deputazioni del popolo parlando svedese. Naturalmente come posso, Altezza». Sembrava che dormisse. Ed era bianca come i suoi capelli incipriati. L'orologio ticchettava. Io avevo timore che improvvisamente si fermasse. La morente principessa incominciava a farmi immensamente pietà. Non più un familiare al suo fianco, il fratello prediletto assassinato ad un ballo in maschera, il nipote considerato pazzo ed esiliato, e adesso la poveretta deve anche vedere un tipo come me sul trono dei suoi avi. «Voi siete una buona regina, madame», disse di punto in bianco. «Facciamo del nostro meglio, Giambattista, Oscar ed io». L'ombra dell'antico sorriso maligno guizzò sul suo volto grinzoso. «E siete una donna molto saggia». Io la guardai, stupita. «Allora, quando la compianta Edvige Elisabetta vi ha rinfacciato di non essere che la figlia di un mercante di sete, allora voi siete scappata via dalla stanza e poco dopo avete lasciato la Svezia per ritornarvi soltanto come regina. Questo non lo si è mai perdonato a Edvige Elisabetta. Una corte senza una giovane principessa ereditaria». Ridacchiò con una punta di gioia maligna. «Oscar mi ha condotto qui i suoi bambini, il piccolo Carlo e l'ultimo nato». «L'ultimo nato si chiama lui pure Oscar», dissi io, orgogliosa. «Carlo vi somiglia molto, madame», dichiarò. «Ed io pensavo alla bellezza dell'essere nonna, di goderci i bambini senza essere svegliati da loro alle 6 del mattino. Giusefina probabilmente dorme finché le garba», riflettei poi. «I miei nipotini hanno tutto uno stato maggiore di governanti e di bambinaie. Io per tutto il primo anno ho tenuto la culla di Oscar accanto al mio letto». «Avrei anch'io desiderato dei bambini. Ma non si è mai trovato un marito adatto per me», si lamentò la morente principessa. «Oscar dice che voi non sareste scontenta se i suoi figli sposassero delle borghesi. Come potete pensare questo, madame?» «Oh, beh, non ho riflettuto molto a questo riguardo, ma i principi possono anche rinunciare al loro titolo, non è vero?» Certamente. E allora bisogna trovare per essi degli altri nomi, conte di Uppsala o barone di Drottningholm, oppure... E perché? Noi abbiamo un buon nome borghese, Bernadotte. Alle parole buon nome borghese il suo viso si contrasse dolorosamente. Ma i futuri Bernadotte saranno, speriamolo, una famiglia di musicisti, di pittori e di poeti, la consolai subito. Oscar è fatto per la musica e la zia di Giuseppina, Ortensia, dipinge e scrive, anche nella mia famiglia. Mi interruppi, sonnecchiava e non mi ascoltava più, ma tutto a un tratto ricominciò a parlare. Volevo parlarvi della corona, madame. Ora vaneggia, pensai. Il suo spirito vaga e si avvicina alla fine, sogna. Di che corona? Domandai per cortesia. Della corona delle regine di Svezia. Mi sentii improvvisamente venir caldo. Nel cuore dell'inverno di Stoccolma, nel quale io sono sempre morta di freddo, mi venne caldo. I suoi occhi erano bene aperti, parlava con calma e chiarezza. Voi non siete stata incoronata con Sua Maestà il Re, madame. Forse voi non sapete neppure che noi abbiamo anche una corona per le nostre regine. Una corona che è anche molto antica, non grande ma pesante. L'ho tenuta più volte nelle mie mani. E voi siete la madre della dinastia Bernadotte, madame. Perché non volete farvi incoronare? Ma finora nessuno ci ha pensato, dissi sottovoce. Ma io ci penso. Io sono l'ultima vasa in Svezia e prego la prima Bernadotte di occuparsi di quell'antica corona. Madame, me lo promettete che vi farete incoronare? Ah, queste cerimonie non sono di mio gusto. Sono troppo piccole e non ho affatto un aspetto regale. Le sue dita esangui si apersero. Aspettavano la mia mano. Non mi resta più molto tempo per pregarvi. Misi allora la mia mano nella sua. Una volta, nel corteo di un'incoronazione, ho dovuto portare un fazzoletto su di un cuscino, pensai. Le campane di Notre Dame suonavano a distesa. Mi lesse forse nel pensiero? Mi sono fatta leggere le memorie di questo Napoleone Bonaparte. Strano. Mi guardò con occhio critico. Strano davvero che i due più notevoli uomini del nostro tempo si siano innamorati proprio di voi, madame. Perché voi veramente non siete una bellezza. Poi sospirò. Lieve lieve. Peccato che io sia una vasa. Avrei preferito essere una Bernadotte e sposare un borghese. Mi sarei annoiata molto meno. Congedandomi, mi inchinai profondamente e baciai la sua mano avvizzita. La principessa morente sorrise, dapprima stupita e poi un po' maligna, perché davvero non sono una bellezza.